vedi come passa il tempo, gelida corrente che trascina il mare. Passa tra le dita, sfila, non si fa vedere, non si fa toccare. Sopra questa corda tesa ho conosciuto il vuoto, ho saputo amare. Vita misteriosa, incerta, non ti chiedo niente, solamente andare. Per le strade, tra la gente, perdersi e cercare. Abbracciarsi, allontanarsi e poi dimenticare. Per le strade, tra la gente, perdersi e tornare. Abbracciarsi, allontanarsi e poi dimenticare. Siamo dentro, affamati e scalzi, pronti per volare. Stanno in giro silenziose le mie vecchie cose, quel che ho da dare. Ora ho cancellato tutto, non ho più domande, niente da aspettare. Vita misteriosa, incerta, non ti chiedo niente.